Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, eccoci qua, pronti? Via con le cose che raccontiamo. Allora, iniziamo con un test. Se si riuscisse ad avere una diagnosi precoce per l'autismo, sarebbe davvero una risoluzione di un problema gigante. E qui si parla di 6 giorni per fare una diagnosi. Sì, neonati di 6 giorni, ecco. Oh, poi bisogna misurare, siamo pieni di nuove apparecchiature, di nuove tecnologie, ma bisogna avere delle misure standard per capire come funzionano tutti questi oggetti. E poi parliamo di depressione, però di depressione di un gatto. In un gatto. È possibile che il gatto sia depresso? Ve lo racconteremo. Seriamente depresso. Via! La storia dell'autismo è una storia complicata, strana, problematica per tantissimo tempo. Insomma, sono soltanto negli ultimi, credo, 2 decenni, adesso lo chiederemo al nostro ospite, che si incomincia a capire che cos'è realmente questa patologia, che praticamente non esisteva e quindi si dava come rarissima quando si manifestava in casi molto gravi. E poi invece abbiamo incominciato a scoprire che è qualcosa di estremamente frequente. I dati sono piuttosto impressionanti. Quindi fondamentale riuscire a capire al più presto nella vita di un umano quando questa patologia si può manifestare. Una diagnosi precoce. E per parlarne abbiamo qui con noi Giorgio Vallortigara. Benvenuto, bentornato professore. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Lei è docente di neuroscienze al CIMEC di Rovereto. Ci deve un po' inquadrare questo problema, perché appunto, come dice Federico, i numeri sono alti, sono sempre più alti. Quindi quanto è necessario poi fare una diagnosi precoce, ce lo spiegherà. Sì, noi oggi preferiamo utilizzare in generale il termine disordine dello spettro autistico, perché in realtà questo si riferisce al disordine dello sviluppo che hanno, svariati aspetti e che probabilmente comprendono anche differenti malattie, differenti ragioni, diciamo così. La presenza comunque di questi disordini è importante, le stime attuali, abbastanza precise, che abbiamo per esempio per gli Stati Uniti, ci dicono che un individuo su 100 o su 150, secondo delle statistiche, può essere diagnosticato come autistico. In Italia non credo al momento siano presenti dei dati molto precisi, però so che l'Istituto Superiore di Sanità in febbraio ha iniziato una ricerca in questo senso. Aspettiamo quindi di avere, diciamo così, dei dati precisi per quello che riguarda il nostro paese. Sappiamo inoltre, è probabile che una componente di tipo genetico è importante in questi disordini, lo sappiamo in primo luogo perché c'è una prevalenza dell'autismo nei maschi rispetto alle femmine, con un rapporto piuttosto importante di 5 a 1, e poi per esempio nei gemelli monozigoti la presenza di autismo arriva a livelli del 50% rispetto al 3% nei gemelli zigoti. Alcuni aspetti, poi alcune forme come la sindrome di Rett, per esempio, o la sindrome dell'X fragile, che sono legate al cromosoma X e che fanno parte, diciamo così, di queste malattie, sono chiaramente di origine genetica. La difficoltà, insomma, sta proprio nel diagnosticare questo disturbo, che appunto spesso si manifesta nei bambini di età già un po' avanzata, quindi 2, 3, 4 anni. Riusciamo a comprenderlo troppo tardi. E voi state lavorando al CIMEC per invece diagnosticare, diciamo, adesso lo diciamo in maniera semplice, leggendo negli occhi dei neonati quelli che possono essere appunto i primi sintomi di questo disturbo. Ci spieghi meglio. Allora, l'idea generale è quella di vedere se nei bambini neonati che poi svilupperanno l'autismo o sindrome di tipo autistico mancano certe predisposizioni di base a rispondere agli stimoli sociali. Noi sappiamo dagli studi sugli animali e sui neonati della nostra specie che stimoli molto semplici presentati ai bambini, come per esempio tre macchie orecchie disposte nell'ordine giusto a mo' di faccia, oppure certi pattern di movimento biologici, oppure il fatto di muoversi da soli, la semovenza, o il muoversi con rapidi cambiamenti di velocità, attraggono l'attenzione dei neonati perché sono indicatori della presenza di oggetti sociali, la mamma, i compagni, eccetera. E quindi l'idea era di vedere se nei piccoli questi segnali possono essere assenti o deficitari, la risposta a questi segnali nei bambini ad alto rischio di autismo. Piccoli quanto? Piccolissimi, tra i 6 e i 10 giorni di vita. Quindi proprio neonati. Insomma, quali sono stati poi i riscontri? Nel senso, loro reagiscono, seppur appunto avendo 6-10 allora, giorni. Il confronto qui deve essere fatto tra bambini a sviluppo normale e bambini che per qualche ragione possono essere associati ai disturbi dello spettro autistico. Allora, siccome la diagnosi non può essere fatta prima dei 3 anni, il trucco è quello di utilizzare bambini che sono fratelli o sorelle, ma più tipicamente fratelli, di bambini a cui è già stato diagnosticato l'autismo. Un'incidenza genetica maggiore. Sì, esatto. Una probabilità per questi bambini più alta. La probabilità di sviluppare sindromi autistiche è di circa il 20%, quindi è molto più elevata rispetto alla norma, e lo è soprattutto per i maschi. E quello che abbiamo trovato, quello che noi facciamo in pratica è avere un laboratorio mobile assieme ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità che hanno questa rete che si chiama NIDA per la diagnosi precoce dell'autismo. Veniamo allertati quando uno di questi bambini, che sono fratelli o sorelle di bambini cui è già stato diagnosticato l'autismo, nasce in qualche posto in Italia dove c'è ovviamente il consenso e l'interesse dei genitori per eseguire i test. Ve li segnalano e voi accorrete. E noi accorriamo col nostro laboratorio e facciamo questi test che sono piuttosto semplici ma accurati. Misuriamo praticamente, osservando il movimento degli occhi con certe strumentazioni, se il bimbo guarda di più o di meno, per esempio una faccia e una non faccia, un pattern di movimento biologico oppure un pattern di movimento non biologico, oppure una faccia con gli occhi che ti guardano negli occhi, oppure una faccia con degli occhi che sfuggono, diciamo così, che rifuggono il contatto diretto. Nei bambini a sviluppo normale le risposte caratteristiche sono di interesse, cioè attratto dal movimento biologico, tende a guardare la faccia che ha gli occhi che ti guardano negli occhi. Questi bambini a rischio invece non mostrano nessuna di queste preferenze, di queste predisposizioni sociali. Cioè è venuto fuori che c'è una differenza insomma significativa tra come reagiscono i bambini ad alto rischio rispetto a quelli tra virgolette dopo normali. Dopo 6 giorni. Esatto, e lo si osserva ad un'età precocissima rispetto all'età in cui tipicamente si può fare una diagnosi. E quindi, diciamo così, noi siamo molto incoraggiati da questi risultati. E ci si potrebbe aspettare che questo test, insomma, venisse in qualche modo eseguito in ogni ambiente neonatale, insomma, diventasse... Questo è appunto quello a cui stiamo cercando di lavorare. E l'idea è quella adesso di estendere l'indagine ad un campione più ampio, naturalmente, di avere repliche, come sempre si richiede nella scienza, e poi di procedere con una versione estremamente semplificata, con strumentazione, diciamo così, in larga misura automatizzata, che possa consentire, che so, appunto, nell'ambiente di una neonatologia, di uno reparto di ostetrica. Le ostetriche, per esempio, farle in maniera abbastanza facile. E di eseguirle come routine, sì. Grazie, davvero buon lavoro, professore. Ci faccia sapere, insomma, quali sono l'evolversi di queste ricerche, di questi lavori importanti. Grazie a voi. Arrivederci, Ortigare. Cosa ci aspetta adesso? Le notizie dal traffico. SMAU Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è qualcosa a cui non facciamo caso, ma è qualcosa di decisivo nella nostra vita quotidiana. Misurare. Ovvero, abbiamo bisogno di enti, ce n'è uno in ogni paese, che certifichino che un certo dato, per esempio relativo al funzionamento di un'apparecchiatura, sia standard, ovvero sia lo stesso per chiunque produca apparecchiature dello stesso tipo. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, IRRIM, è a sede a Torino e ha appena organizzato un convegno internazionale. Vito Fernicola, direttore del Dipartimento di Innovazione e Servizi Metrologici dell'Istituto, e l'abbiamo intervistato e abbiamo incominciato con questa domanda, cioè: ma siamo in un'epoca di grandissime rivoluzioni tecnologiche con un sacco di apparecchiature nuove che stanno arrivando, che cosa significa affrontare questo problema oggi? Mi lasci dire che le misure sono importanti in ogni situazione della vita e in particolare nelle applicazioni industriali. Certo. Ricordo la frase famosa di Lord Kelvin che diceva: quando puoi misurare qualcosa, allora sai di cosa stai parlando. Se non puoi misurarlo e non lo puoi esprimere in numeri, la tua conoscenza è povera, anzi lui diceva magra, non abbiamo niente in mano. Questo ricorda molto anche il paradigma della metrologia. La metrologia è una scienza che studia le costanti fondamentali, studia i nuovi metodi per fare misurazioni sempre più accurate con 17-18 cifre decimali, ma dall'altro la metrologia è una tecnologia abilitante, nel senso che è la tecnologia che garantisce la qualità delle misure. E il fatto che siano allineate una con le altre, no? Perché abbiamo bisogno di standard in tutto il mondo, se no non si dialoga. Questo è il punto fondamentale. La metrologia è un po' una sorta di linguaggio comune, omogeneo, che le misure siano coerenti, come si dice, in tutto il mondo. Un esempio direi significativo è, in particolare nell'economia globale che viviamo ogni giorno, è la progettazione di, che so, una memoria semiconduttore da 32-64 gigabyte e progettata in California. Viene magari costruita la maschera per realizzare memoria in Corea e poi viene prodotta da un'azienda in Cina. Peraltro posso dire, già solo l'Europa investe oltre 80 miliardi di euro all'anno in misurazioni di processo, un numero che è vicino, poco inferiore all'1% del prodotto interno europeo. Ecco, mi scusi, chiariamo bene questa cosa, perché lei qui introduce forse un tema che è veramente poco noto a noi tutti, al largo pubblico. Misurazione di processo, quindi gli oggetti che vengono prodotti all'interno di processi che possono addirittura avvenire in diversi paesi, e quindi bisogna che questi processi abbiano una loro misurazione standard, assolutamente allineata. È questo che ne intende, no? Esattamente, standard coerente, coerente, come si dice, da una nazione all'altra. Una delle ragioni vere, oltre quella ovvia, diciamo, di efficienza in un processo produttivo, è legata moltissimo ai costi, perché se io produco e misuro, poi vendo il mio oggetto e l'acquirente lo deve rimisurare una seconda volta, il cosiddetto double testing, questo naturalmente ha un costo. Invece la produzione conforme in un singolo paese, se le misurazioni di quel paese poi sono coerenti con quelle del resto del mondo, io posso evitare questo double test. Il motto è: misurato una volta, accettato ovunque. Ecco, però, allora, arrivando invece alle tecnologie contemporanee che sono in piena espansione e rivoluzione, dov'è che abbiamo delle situazioni delicate, insomma, complesse rispetto alla misurazione? Quella che ormai è nota come manifattura 4.0, industria 4.0, è un settore, direi, sterminato, in cui i sensori e le misure sono distribuite capillarmente all'interno della fabbrica, o saranno distribuite in maniera capillare. Sensori che comunicheranno tra loro, che comunicheranno con i centri di controllo e che saranno in grado di valutare le qualità dei prodotti, ma anche il costo dei prodotti. Cioè, l'obiettivo finale è quello di poter valutare in tempo reale il costo per unità di prodotto di un singolo componente e valutarne anche la qualità. Ma mi scusi, è una qualità che deve essere dimostrata all'acquirente? La qualità del prodotto deriva anche da come io misuro il prodotto. Quindi dal nostro punto di vista è la qualità delle misure che conta. Cioè il singolo dato di processo, la misura di la dimensione di un oggetto, ad esempio durante la fase di processo, che potrebbe essere il pistone di un motore a scoppio, ad esempio, ecco, deve essere misurato costantemente durante la fase di produzione per poter garantire le tolleranze necessarie dalle specifiche. Certo. Anzi, in questo caso, proprio l'esempio delle moderne automobili, le tolleranze meccaniche dei componenti sono le stesse degli orologi svizzeri in questo momento. Mm. E questo lo si può fare, lo si può ottenere grazie al fatto che la metrologia è entrata direttamente sulla linea di montaggio. Ma perché in questo caso qual è la cosa? Che se una certa casa automobilistica produce un determinato motore che ha degli standard di qualità, un'altra, come, o tutte le altre che fanno motori magari analoghi della stessa potenza, se dicono di avere gli stessi standard, deve essere certificato, se no ognuno potrebbe dirli e basta e non avere delle verifiche. Voi dovete garantire, voi avete bisogno di garantire che il modo di misurare questi dati sia omogeneo e concorrente. È uniforme in tutto il paese o in tutto il mondo, in realtà, sì. Perché poi la metrologia nazionale, quella italiana, è inserita all'interno di una rete mondiale di controlli e di misure. Possiamo concludere qui e si potrebbe ricordare quel famoso esempio con l'arrivo delle ferrovie che collegavano le varie città, si ebbe un enorme avanzamento nella produzione, nelle tecnologie degli orologi, perché i treni partivano alle 4 e arrivavano magari alle 3.50, perché gli orologi in ogni paese avevano una loro vita personale, no? E certamente con questo vostro lavoro si ha lo stesso tipo di effetto, magari più nascosto, ma è così. Non è così nascosto, perché proprio l'esempio che faceva lei sul tempo è fondamentale, perché avere una scala di tempo uniforme e precisa significa fare navigazione. Sì. La navigazione satellitare, il sistema di GPS è basato su una misura estremamente accurata di tempo. Oh, qui si potrebbe concludere con io che vi auguro, insomma, c'è lavoro per mille anni, in realtà invece voi dovete riuscire a produrre risultati molto rapidamente, perché tutte queste cose sono in pieno sviluppo, non è fatto vero che avete tanto tempo. Non abbiamo tanto tempo, e soprattutto perché nel 2018 vi sarà una nuova ridefinizione delle unità di misura fondamentali e da qui a quella data dobbiamo correre per anche noi essere al passo con i migliori paesi del mondo. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a lei. Una bella rivista di scienza online, Nautilus, racconta un fatto abbastanza singolare, o perlomeno adesso vediamo se è singolare, però forse con queste caratteristiche lo è. Un gatto che vive in una famiglia in cui improvvisamente, insomma, nasce improvvisamente, previsto, un bambino, entra in una crisi depressiva spaventosa. Il gatto, non il gatto, bambino. Il gatto, con manifestazioni veramente complesse. Per esempio lui, come fanno tanti gatti, grattava alla porta della stanza da letto di lui e lei alla mattina. Dal momento in cui nasce il bambino, praticamente si butta a corpo morto sulla porta, cercando di sfondarla come se fosse un ariete. Di buttarla giù. Poi si nasconde, diventa nervoso, diventa insomma sostanzialmente isterico. Dopodiché tutta questa crisi qui va scemando nel momento in cui il bambino, insomma, ha un anno e incomincia a giocare a con interagire lui, con diventa, lui e a lui gli passa. Allora, no, non so se è così raro come comportamento. Adesso andiamo a sentirlo. Andiamo a sentirlo e ne parliamo con Paolo Zucca. Buonasera Zucca. Benvenuto. Buonasera a tutti. Medico veterinario comportamentalista, che certo in questo caso sa un po' anche di psicanalista, e lei lavora alla direzione centrale salute sociosanitaria nell'ambito appunto della, anche nello specifico della veterinaria della regione Friuli Venezia Giulia. Allora la domanda che le facciamo è questa, cioè sappiamo tutti per carità che i nostri animali domestici sono più o meno felici a seconda di situazioni in cui vengono a trovarsi. C'è una forte interazione sì, col padrone. Questo lo sappiamo. Qui però si profila un comportamento di, come vogliamo chiamare, di secondo livello, cioè crisi depressive classiche come quelle assolutamente degli umani, quindi non più solo umorali. Ecco. Com'è? Beh, cominciate a capire che è così anche per loro? Sì, di fatto, voglio dire, sin dagli anni 80-90 del secolo scorso si è visto che voglio dire, la vita emozionale degli animali è assimilabile molto a quella che è la vita emozionale dell'uomo, chiaramente con un gradiente diverso, cioè comportamenti come la prostrazione in seguito alla perdita di un compagno, di un parente, oppure una depressione d'abbandono, sono fenomeni assolutamente assolutamente diffusi. È chiaro che gli animali parlano meno, ecco, rispetto all'uomo, per cui non sempre è così semplice andare addentro a questi fenomeni, però nello specifico il caso che avete citato è un caso classico, cioè diciamo della medicina comportamentale veterinaria, ovvero un equilibrio che magari è perdurato per vari anni in cui l'animale ha vissuto sempre in una stessa struttura sociale, viene improvvisamente variato per l'arrivo di un nuovo nascituro che è un bipede umano, il quale cosa fa? Sposta l'attenzione dei proprietari, proprietari del gatto, dal gatto che magari fino a quel momento era l'elemento centrale, un elemento fondamentale, al neonato, perché in quella fase ha bisogno di più attenzioni. Ma è chiaro che il gatto, voglio dire, non può comprendere appieno questo tipo di scelta biologica da parte, peraltro giusta, da parte dei genitori, che forse non comprendono a loro volta quanto grave sia per l'animale una diminuzione dell'attenzione, una diminuzione delle interazioni e delle relazioni. Questi fenomeni sono molto diffusi e il fatto è assolutamente assimilabile a quello che avviene nell'uomo, per cui se possiamo dare dei consigli... Sembra molto naturale, anche quando nasce, ad esempio, ad un bambino nasce un fratellino, che c'è appunto un po' quell'antagonismo, per cui in alcune situazioni, alcuni bambini ovviamente, non tutti, hanno un po' delle reazioni un po' isteriche, perché ovviamente l'attenzione dei genitori si è un po' rivolta verso quello più piccolo. La cosa curiosa è che ci sono anche le stesse variazioni, ovvero nel caso specifico che avete citato, diciamo, le cose si sono riappacificate, fra virgolette, nel momento in cui il bambino ha cominciato a avere moto proprio, cioè ha cominciato a muoversi, ha cominciato a interagire. Ci sono analogie con quello che è il comportamento umano. Delle volte gli animali possono avere, non so come dire, queste crisi nel momento in cui il bambino neonato arriva, ma delle volte possono manifestarle anche dopo. C'è anche una questione di tempo. C'è una assuefazione, c'è una diminuzione dell'ansia anche da parte dei proprietari e quindi questo carico di fatica psicologica viene anche a mancare, per cui anche il gatto ne giova, ecco, per cui ogni volta che si inserisce un individuo nuovo all'interno di un gruppo sociale si causa una ridefinizione dei ruoli che porta a uno stress, come peraltro può avvenire, voglio dire, in qualsiasi famiglia. Sempre rimanendo appunto in ambito animale, questo tipo di crisi, queste depressioni, ecco, adesso noi abbiamo raccontato un caso, ma in realtà ce ne sono tanti altri, e queste manifestazioni appunto isteriche degli animali, in qualche modo voi veterinari come le gestite? Cioè, non so, si curano, come si può curare ad esempio una depressione umana? In questa notizia di Nautilus loro citano uno psicofarmaco che è ha una dimensione, una serie di principi attivi più bassi, ma è tipo Prozac. Difatti, voglio dire, la fluoxetina o altri principi attivi sono dei farmaci che vengono utilizzati anche per la terapia di alcuni comportamenti compulsivi negli animali. Certo è che normalmente l'approccio, peraltro come avviene nell'uomo, dice che la somministrazione di farmaci è l'ultima cosa che devi fare, perché se io non rimuovo la causa che mi genera questo comportamento anormale o comunque grave che può danneggiare anche lo stesso animale, non risolvo il problema somministrando dei farmaci. No, ecco perché una visita comportamentalista dura molto, perché soprattutto nella prima fase il medico veterinario deve comprendere qual è la struttura sociale, qual è il problema che può aver causato questo. Va bene, grazie Paolo Zucca, buon lavoro. Grazie, buonasera. Qui c'è tutto un filone di psichiatria per gatti, c'è un sacco di lavoro qua. Sì, ne abbiamo proprio bisogno di una nuova specializzazione. Occupazione è il problema di oggi. Assolutamente sì. Siamo arrivati alla fine. Buona settimana a tutti. E a tutte. Ciao.